America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, anno della cultura italiana in America. Il venerdì, come sapete, cerco di affrontare un tema culturale o comunque legato alla cultura e vorrei affrontare la questione del design, la questione della cultura legata al design e della cultura legata al sociale. Perché da domani si apre a New York, dal 18 al 21, la International Contemporary Furniture Fair, quindi una fiera dell'arredamento e del design. E c'è anche la Design Week, perché poi questa fiera, che è il Javits Center, in realtà poi si estende, si espande a una serie di location in tutta la città dove domina, trionfa, devo dire, il design. Perché lo leggo all'anno della cultura italiana negli Stati Uniti? Perché quest'anno c'è un debutto italiano legato all'impresa sociale, legato alla filantropia, perché San Patrignano, che è il centro per riabilitare i tossicodipendenti, ha trovato 30 designer fra i più importanti nel mondo, come Libeskind, Rashid, Ferragamo, Missoni, che hanno disegnato degli oggetti per l'utilizzo esclusivo del barrique, cioè il legno di rovere che viene usato per le botti dove si fa invecchiare il vino, perché a San Patrignano c'è anche il vino, c'è la produzione di vino, quindi sono queste botti. Che succede? Che dopo un certo numero di anni queste botti si buttano. Allora qui c'è un progetto di riutilizzare queste botti, avere questi designer che hanno così creato una gran quantità di oggetti d'arredamento, sedie, divani, poltroni, attaccapanni, lampade e così via, e sono poi costruiti da questi ragazzi. E qual è la novità? Che sono in esposizione qui a New York a Poltrona Frau, ci sono poi una gran quantità di aziende italiane che fanno lo sponsor, Intesa, Fondazione Bracco, MSC Cargo, tanto per dirne qualcuna, e questi oggetti poi sono venduti su eBay. Io ho qui con me ai microfoni di America 24 Letizia Moratti, che è così l'anima creatrice di tutta il motore di questa iniziativa. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno a lei. Beh, intanto, ma lei è una trottola, perché era a Boston, poi è andata in Qatar, poi è tornata, poi sta lavorando a tempo pieno al sociale, o sbaglio? Sì, sto lavorando a tempo pieno al sociale perché ce n'è bisogno, perché in questo momento di crisi, in un momento di transizione della nostra economia, in un momento in cui lo Stato è costretto a tagliare i costi del welfare, c'è la necessità di unire dei mondi diversi che forse fino adesso non si sono mai parlati, che sono il mondo del profit e del no profit. E vediamo come due mondi diversi si sono uniti, e cioè il mondo di grandi designer, 30 grandi designer internazionali, e quello dei ragazzi, dei tossicodipendenti. Com'è la storia? A San Patrignano i progetti nascono perché c'è una grande creatività da parte dei ragazzi in percorso, e quindi attraverso una opportunità che ci è stata data da Maurizio Riva, che è una delle falegnamerie più antiche italiane, abbiamo colto il desiderio da parte di questi 30 designer straordinari che hanno voluto dedicare dei disegni a San Patrignano, e i circa 100 ragazzi della falegnameria di San Patrignano li hanno realizzati e sono davvero degli oggetti bellissimi. Questo è importante perché fa parte di una acquisizione di competenze, di esperienze, di capacità, che poi aiuterà questi ragazzi, una volta usciti da San Patrignano, a reinserirsi pienamente nella società, lavorando e avendo una professione. Ecco, parliamo della missione sociale nei paesi europei, perché in America, io lo dico sempre, cerco di battere su questo chiodo, la filantropia, la missione sociale è molto diffusa, tutti si sentono in dovere di restituire, di give back. Da noi in Europa un po' meno. Ecco, lei ha la sensazione che qualcosa si stia muovendo? Sì, sicuramente in Europa, su impulso del commissario Barnier, si sta muovendo il superamento di questo concetto che vede appunto separati il mondo profit dal mondo non profit, e attraverso dei fondi sociali che sono disponibili, saranno disponibili nel bilancio 2014 della Commissione Europea, ci saranno grandi opportunità che si apriranno e che speriamo anche l'Italia possa cogliere. Vabbè, quindi ci dà una notizia, cioè l'Unione Europea sta stanziando dei fondi da destinare all'impresa sociale. Sì, sta destinando dei fondi alle imprese sociali con dei meccanismi che negli Stati Uniti, per esempio, sono già stati sperimentati. Beh, diamo anche un'altra notizia, perché ieri sera, e c'ero anch'io poi a questa cosa, il sindaco Bloomberg ha aperto la sua casa proprio per parlare di questa vostra iniziativa sul Barrick, sui tossicodipendenti, sull'impresa sociale e così via. Beh, devo dire, insomma, è raro che il sindaco di New York, o comunque Bloomberg in particolare, faccia un evento a casa sua. Ma insomma, voi avete un rapporto molto amichevole. Sì, diciamo che il rapporto con il sindaco Bloomberg risale ad anni fa, credo forse ancora quando io lavoravo con Rupert Murdoch, poi è proseguito quando io ho avuto l'esperienza da sindaco e poi è continuato. Beh, allora le devo raccontare una storia, perché qualche settimana fa mi sono trovato a uno di questi benefit, perché i nostri ascoltatori devono sapere, qui a New York ci sono benefit in continuazione, ed era il Four Seasons, che è uno dei ristoranti più prestigiosi di New York. Una domenica sera, non tanta gente, e con mia sorpresa vedo che c'è anche Bloomberg, che è lì fin dall'aperitivo. E poi la serata come funziona? Che si passa attraverso le cucine di questo ristorante e lì c'è un self-service, e poi tutti ci si siede, poi Bloomberg ha parlato e così. E mi sono trovato in coda con lui, allora ho detto, beh, so che lei conosce il sindaco Moratti, la signora Moratti, il ministro Moratti. Ah, e lì gli occhi gli si sono illuminati, sì, come siamo molto amici. E ha detto una cosa che mi ha colpito, perché dice, sono stato a cena a casa dei Moratti, hanno una casa meravigliosa, gli italiani sì che sanno vivere. Ecco, perché mi ha colpito? Perché dico, qui a New York ci sono insomma delle case così, non è che non ci siano delle belle case. Dunque, vuol dire che, signora, la sua casa deve essere particolarmente bella. Sì, ricordo perfettamente quel giorno, era una colazione, c'erano i fiori in terrazzo perché era primavera, e poi gli ho fatto vedere naturalmente il nostro appartamento. È una casa che io ho cercato di arredare con tanto amore. Forse le confesso una cosa segreta, io avrei sognato di fare l'architetto nella mia vita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sia in tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il 17 maggio 2012 una grande cantante americana ci ha lasciato, Donna Summer, un tumore ai polmoni dovuto, pensate, sembra all'inalazione delle polveri per il crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. E dunque, nel primo anniversario della sua scomparsa, voglio dedicare a lei la canzone del giorno. Donna Summer, I Feel Love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.